cantare. A lei che non tradì, a lei che dice sì, quando poi. A lei che spazza via la tua malinconia per me. Facendoti in amore, togliendoti il bicchiere, lo so. Justa.